Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. In maggio finì la guerra. Due settimane prima che il governo ne desse l'annuncio ufficiale in un proclama altisonante che prometteva uno spietato castigo per i promotori della ribellione, il colonnello Aureliano Buendía cadde prigioniero quando stava già per raggiungere la frontiera occidentale camuffato da stregone indigeno. Dei 21 uomini che lo seguirono nella guerra, 14 morirono in combattimento. 6 erano feriti e uno solo lo accompagnava nel momento della sconfitta finale, il colonnello Gerineldo Márquez. La notizia della cattura fu data a Macondo con un bando straordinario. «È vivo!» comunicò Ursula a suo marito. «Preghiamo Dio perché i suoi nemici abbiano clemenza!» Dopo 3 giorni di pianto, un pomeriggio in cui stava sbattendo un dolce di latte nella cucina, sentì chiaramente la voce di suo figlio molto vicino all'orecchio. «Era Aureliano!» gridò, correndo verso il castagno per dare la notizia al marito. «Non so com'è stato il miracolo, ma è vivo e lo vedremo presto!» Lo diede per certo. Fece lavare i pavimenti della casa, cambiare le posizioni dei mobili. Una settimana dopo, una notizia di cui si ignorava l'origine e che il bando non doveva avvalorare, ribadì drammaticamente il presagio. Il colonnello Aureliano Buendía era stato condannato a morte e la sentenza sarebbe stata eseguita a Macondo ad ammaestramento del popolo. Un lunedì, alle 10:20 del mattino, Amaranta stava vestendo Aureliano José quando udì un trambusto remoto e uno squillo di cornetta, un secondo prima che Ursula si precipitasse nella stanza con un grido: «Lo stanno portando!» La truppa lottava per trattenere a colpi di calcio di fucile la folla straripante. Ursula e Amaranta corsero fino alla cantonata, aprendosi il passaggio a spintoni, e allora lo videro. Sembrava un barbone. Aveva i vestiti stracciati, i capelli e la barba arruffati ed era scalzo. Camminava senza sentire la polvere infocata, con le mani legate dietro la schiena, con una fune assicurata al pomo della sella di un ufficiale di cavalleria. Vicino a lui, pure cencioso e sfinito, trascinavano il colonnello Gerineldo Márquez. Non erano tristi. Sembravano invece turbati dalla folla che gridava alla truppa ogni sorta di improperi. «Figlio mio!» gridò Ursula in mezzo alla gazzarra e diede una manata al soldato che cercò di trattenerla. Il cavallo dell'ufficiale si impennò. Allora il colonnello Aureliano Buendía si fermò fremente, schivò le braccia di sua madre e puntò nei suoi occhi uno sguardo duro. «Se ne vada a casa, mamma», disse. «Chieda il permesso alle autorità e venga a vedermi in prigione». Guardò Amaranta che rimaneva indecisa a 2 passi dietro Ursula e le sorrise domandandole: «Che hai fatto la mano?» Amaranta alzò la mano con la benda nera. «Una scottatura», disse, e scostò Ursula perché i cavalli non la rovesciassero. La truppa sparò. Un picchetto speciale circondò i prigionieri e li portò al trotto nella caserma. Verso sera, Ursula andò a trovare in prigione il colonnello Aureliano Buendía. Aveva cercato di ottenere il permesso tramite Don Apolinar Moscote, ma questi aveva perso ogni autorità di fronte all'onnipotenza dei militari. Padre Nicanor era a letto per una febbre epatica. I genitori del colonnello Gerineldo Márquez, che non era condannato a morte, avevano cercato di vederlo ed erano stati respinti col calcio del fucile. Vista l'impossibilità di trovare intermediari, convinta che suo figlio sarebbe stato fucilato allo spuntare del giorno, Ursula fece un fagotto delle cose che voleva portargli e andò da sola nella caserma. «Sono la madre del colonnello Aureliano Buendía», si annunciò. Le sentinelle le sbarrarono il passo. «Entrerò in ogni modo», gli avvertì Ursula, «e quindi se avete ordine di sparare, cominciate pure subito». Ne spinse da parte uno con un urtone e entrò nella vecchia aula. Trovò il colonnello Aureliano Buendía nella stanza cella, sdraiato su una branda e con le braccia spalancate perché aveva le ascelle tempestate di favi. Gli avevano permesso di radersi. I baffi densi di punte ritorte accentuavano l'angolosità dei suoi zigomi. A Ursula parve che fosse più pallido di quando se n'era andato, un po' più alto e più solitario che mai. Fin dal momento in cui entrò nella stanza, si sentì sopraffatta dalla maturità di suo figlio, dalla sua aura di padronanza, dal bagliore di autorità che radiava la sua pelle. Si meravigliò che fosse così ben informato. «Lei sa bene che sono indovino», scherzò lui, e aggiunse seriamente: «Questa mattina, quando mi stavano portando qui, ho avuto l'impressione di essere già passato per tutte queste cose». In realtà, mentre la folla tumultuava al suo passaggio, lui era assorto nei suoi pensieri, stupito di quanto era invecchiato in un anno il villaggio. I mandorli avevano le foglie rotte, le case pitturate di azzurro, ripitturate di rosso e poi tornate a pitturare di azzurro, avevano finito per assumere una tinta indefinibile. «Cosa ti aspettavi?» sospirò Ursula. «Il tempo passa». «Così è», ammise Aureliano, «ma non tanto». E in questo modo la visita da tanto tempo attesa, per la quale ambedue avevano preparato le domande e perfino previsto le risposte, fu di nuovo la conversazione quotidiana di sempre. Quando la sentinella annunciò la fine del colloquio, Aureliano prese da sotto la stuoia della branda un rotolo di carte sudate. Erano i suoi versi. Quelli ispirati da Remedios, che aveva portato con sé quando se n'era andato, e quelli scritti dopo, nelle burrascose pause della guerra. «Mi prometta che nessuno li leggerà», disse. «Questa sera li adoperi per accendere il forno». Ursula lo promise e si alzò per dargli un bacio di addio. «Ti ho portato un revolver», mormorò. Il colonnello Aureliano Buendia si accertò che la sentinella non fosse in vista. «Non mi serve a nulla», ribatté a voce bassa. «Ma me lo dia, nel caso la perquisissero all'uscita». Ursula tirò fuori il revolver dal corpetto e lui lo infilò sotto la stuoia della branda. «E adesso non mi dica addio», concluse con un'enfasi stanca. «Non supplichi nessuno, non si abbassi davanti a nessuno, faccia conto che mi abbiano fucilato da molto tempo». Ursula si morsicò le labbra per non piangere. «Mettiti dei sassi caldi sui favi», disse. Si voltò e uscì dalla stanza. Il colonnello Aureliano Buendia rimase in piedi pensieroso finché non si chiuse la porta. Allora tornò a sdraiarsi con le braccia aperte. Fin dalla prima adolescenza, quando aveva cominciato ad avere coscienza dei suoi presentimenti, aveva pensato che la morte si sarebbe annunciata con un segno definito, inequivocabile e irrevocabile. Ma gli mancavano poche ore a morire e il segno non arrivava. Ma quando lo condannarono a morte e gli chiesero di esprimere la sua ultima volontà, non gli fu difficile identificare il presagio che gli aveva ispirato quella risposta. «Chiedo che la sentenza venga eseguita a Macondo», disse. Il presidente del tribunale si era irritato. «Non faccia il furbo, Buendia», gli disse. «È uno stratagemma per guadagnare tempo». «Se non volete, padroni voi», disse il colonnello. «Ma questa è la mia ultima volontà». Il giorno in cui Ursula venne a trovarlo in prigione, dopo aver pensato molto, giunse alla conclusione che quella volta, forse, la morte non si sarebbe annunziata perché non dipendeva dal caso, ma dalla volontà dei suoi carnefici. Trascorse la notte in bianco, tormentato dal dolore dei favi. Poco prima dell'alba sentì dei passi nel corridoio. «Eccoli», si disse. E pensò, senza alcun motivo, a José Arcadio Buendía, che in quel momento stava pensando a lui, in quella lugubre aurora del castagno. Non provò né paura né nostalgia, ma una rabbia viscerale al pensiero che quella morte artificiosa non gli avrebbe permesso di conoscere la fine di tante cose che lasciava incompiute. La porta si aprì ed entrò la sentinella con una scodella di caffè. Il giorno dopo, alla stessa ora, era ancora nello stesso stato, col dolore all'ascella che lo faceva smaniare, e successero esattamente le medesime cose. Il giovedì spartì il dolce di latte con le sentinelle e si mise l'abito pulito che gli stava stretto e gli stivaletti di vernice. Il venerdì non lo avevano ancora fucilato. In realtà non osavano eseguire la sentenza. I militari sapevano di avere il popolo contro e la fucilazione del colonnello Aureliano Buendía avrebbe portato gravi conseguenze politiche non soltanto a Macondo ma anche in tutta la palude, e perciò si consultarono con le autorità del capoluogo. La notte del sabato, mentre aspettavano la risposta, il capitano Roque Carnicero andò con altri ufficiali nella bottega di Catarino. Solo una donna, quasi costretta con la forza, osò portarselo in camera. «Non vogliono andare a letto con un uomo che si sa che sta per morire», gli confessò la donna. «Nessuno sa come succederà, ma lo dicono tutti. L'ufficiale che fucilerà il colonnello Aureliano Buendía e tutti i soldati del plotone a uno saranno assassinati senza rimedio, prima o poi, anche se si vanno a nascondere in capo al mondo». Tutti sapevano che gli ufficiali erano decisi a sottrarsi con ogni sorta di pretesti alle responsabilità dell'esecuzione. Con la posta del lunedì arrivò l'ordine ufficiale. L'esecuzione doveva essere effettuata nello spazio di 24 ore. Quella sera gli ufficiali misero in un berretto 7 biglietti con i loro nomi e l'inclemente destino del capitano Roque Carnicero lo indicò vincente. «La cattiva sorte non ha scappatoie», disse con profonda amarezza. «Sono nato figlio di puttana e muoio figlio di puttana». Alle 5 del mattino scese il plotone a sorte. Lo radunò nel patio e svegliò il condannato con una frase premonitrice. «Andiamo, Wendia», gli disse. «È arrivata la nostra ora». «E cos'era?» ribatté il colonnello. «Stavo sognando che mi erano scoppiati i favi». Rebecca Wendia si alzava tutte le mattine alle 3, da quando aveva saputo che Aureliano sarebbe stato fucilato. Restava nella sua stanza al buio, spiando dalla finestra socchiusa il muro del cimitero, mentre il letto su cui era seduta tremava per i ronfi di José Arcadio. Attese per tutta la settimana con la stessa ostinazione recondita con la quale in altra epoca aspettava le lettere di Pietro Crespi. «Non lo fucileranno qui», le diceva José Arcadio. Il martedì alle 5 del mattino, José Arcadio aveva bevuto il caffè e slegato i cani, quando Rebecca chiuse la finestra e si afferrò al capezzale del letto per non cadere. «Lo stanno portando», sospirò. «Com'è bello!» José Arcadio si affacciò alla finestra e lo vide, fremente nel chiarore dell'alba, con dei pantaloni che erano stati suoi in gioventù. Era già con le spalle al muro e teneva le mani appoggiate alla vita perché le nodosità ardenti delle ascelle gli impedivano di abbassare le braccia. «Tanto scoglionarsi», mormorava il colonnello Aureliano Wendia, «tanto scoglionarsi per farsi ammazzare da 6 mezze seghe senza poter far nulla». Lo ripeteva con tanta rabbia che quasi sembrava fervore e il capitano Roque Carnissero si commosse perché credette che stesse pregando. Quando il plotone puntò i fucili, la rabbia si era materializzata in una sostanza viscosa e amara che gli addormentò la lingua e lo costrinse a chiudere gli occhi. Allora scomparve il chiarore di alluminio della prima luce e tornò a vedere se stesso, bambinetto, coi calzoncini corti e un fiocco al collo, e vide suo padre in un pomeriggio splendido che lo conduceva nell'interno del padiglione e vide il ghiaccio. Quando sentì il grido, credette fosse l'ordine finale al plotone. Aprì gli occhi con una curiosità rabbrividente, aspettandosi di cogliere la traiettoria incandescente dei proiettili, ma vide soltanto il capitano Roque Carnissero con le braccia alzate e José Arcadio che attraversava la strada col suo spaventoso schioppo pronto a sparare. «Non faccia fuoco», disse il capitano a José Arcadio. «Lei è mandato dalla Divina Provvidenza». E cominciò un'altra guerra. Il capitano Roque Carnissero e i suoi 6 uomini andarono col colonnello Aureliano Wendia a liberare il generale rivoluzionario Vittorio Medina, condannato a morte a Rioacha. Pensarono di guadagnare tempo attraversando la sierra per il cammino seguito da José Arcadio Wendia per fondare Macondo, ma gli bastò una settimana per convincersi che era un'impresa impossibile. Di modo che dovettero prendere per la strada pericolosa dei contrafforti, senza altre munizioni che quelle del plotone di esecuzione. Si accampavano vicino ai villaggi e uno di loro, con un pesciolino d'oro in mano, entrava in pieno giorno camuffato e si metteva in contatto coi liberali a riposo, che il mattino dopo uscivano a caccia e non tornavano mai più. Quando scorsero Rioacha da un gomito della sierra, il generale Vittorio Medina era stato fucilato. Gli uomini del colonnello Aureliano Wendia lo proclamarono capo delle forze rivoluzionarie della Costa dei Caraibi, col grado di generale. Egli assunse l'incarico, ma rifiutò la promozione e impose a se stesso la condizione di non accettarla finché il regime conservatore non fosse stato rovesciato. In capo a 3 mesi erano riusciti ad armare più di 1.000 uomini, ma furono sterminati. Il governo nazionale lo incluse nella categoria dei briganti e pose sulla sua testa una taglia di 5.000 pesos. Dopo essere stato sconfitto 16 volte, il colonnello Aureliano Wendia uscì dalla Guaira con 2.000 indigeni ben armati e proclamò una guerra totale contro il regime. La prima comunicazione che ricevette dal governo fu la minaccia di far fucilare il colonnello Gerineldo Marquez entro 48 ore se non avesse ripiegato con le sue forze fino alla frontiera orientale. Il colonnello Roque Carnissero, che allora era capo del suo stato maggiore, gli consegnò il telegramma con un gesto di costernazione, ma lui lo lesse con un'imprevista allegria. «Guarda un po'!» esclamò. «Anche a Macondo abbiamo il telegrafo!» La sua risposta fu perentoria. Entro 3 mesi sperava di ristabilire il suo quartier generale a Macondo, Se per allora non avesse trovato vivo il colonnello Gerineldo Márquez, avrebbe fucilato sommariamente tutti gli ufficiali fatti prigionieri in quel momento, cominciando dai generali, e avrebbe dato ordine ai suoi subalterni di procedere nello stesso modo fino al termine della guerra. 3 mesi dopo, quando entrò vittorioso a Macondo, il primo abbraccio che ricevette sulla strada della palude fu quello del colonnello Gerineldo Márquez. Casa era piena di bambini. Ursula aveva raccolto Santa Sofia della Piedad con la figlia maggiore e con un paio di gemelli che erano nati 5 mesi dopo la fucilazione di Arcadio. Contro l'ultima volontà del fucilato fece battezzare la bambina col nome di Remedios. «Sono sicura che Arcadio intendeva dir questo», si giustificò. «Non la chiameremo Ursula, perché si soffre molto con quel nome». Ai gemelli diede il nome di José Arcadio II e Aureliano II. Amaranta se li prese tutti a carico. Sistemò delle seggioline di legno nel salotto e con i bambini delle famiglie vicine mise su un nido d'infanzia. Quando tornò il colonnello Aureliano Buendía, tra scoppi di petardi e rintocchi di campane, un coro infantile gli diede il benvenuto a casa. Aureliano José, lungo come suo nonno, vestito da ufficiale rivoluzionario, gli rese gli onori militari. Non tutte le notizie erano buone. Un anno dopo la fuga del colonnello Aureliano Buendía, José Arcadio e Rebecca se ne erano andati a vivere nella casa costruita da Arcadio. Nessuno seppe del suo intervento per impedire la fucilazione. José Arcadio continuò a usufruire delle terre usurpate, i cui titoli furono riconosciuti dal governo conservatore. Tutte le sere lo si vedeva tornare a cavallo con i suoi cani da caccia e il suo schioppo a 2 canne e una filza di conigli appesi alla sella. Un pomeriggio di settembre, che minacciava un temporale, tornò a casa più presto del solito. Salutò Rebecca nella sala da pranzo, legò i cani nel patio, appese i conigli in cucina per sararli più tardi e andò in camera a cambiarsi. Rebecca dichiarò poi che quando suo marito era entrato in camera, lei si era chiusa nel bagno senza rendersi conto di niente. Una versione difficile da credere, ma non ce n'era altra più verosimile e nessuno riuscì a concepire un motivo per il quale Rebecca potesse aver assassinato l'uomo che l'aveva resa felice. Quello fu forse l'unico mistero che non si mise mai in chiaro a Macondo. Non appena José Arcadio chiuse la porta della camera, lo scoppio di una pistolettata rimbombò nella casa. Un filo di sangue uscì da sotto la porta, attraversò la sala, uscì in strada, continuò in un percorso diretto lungo i marciapiedi disuguali, scese scalinate e scalò parapetti, si lasciò dietro la strada dei Turchi, girò a destra in una cantonata e a sinistra in un'altra, piegò ad angolo retto davanti alla casa dei Buendía, passò sotto la porta chiusa, attraversò il salotto buono strisciando lungo le pareti per non macchiare i tappeti, continuò per l'altro salotto, schivò con un'ampia curva il tavolo della sala da pranzo, avanzò per il porticato delle begonie, passò non visto sotto la sedia di Amaranta che stava dando una lezione di aritmetica a Aureliano José, si infilò nel granaio e finì nella cucina dove Ursula stava per rompere 36 uova per fare il pane. «Ave Maria Purissima!» gridò Ursula. Seguì il filo di sangue in senso contrario e cercando la sua origine attraversò il granaio. Passò per il porticato delle begonie dove Aureliano José cantava che 3 e 3 fanno 6 e 6 e 3 fanno 9 e attraversò la sala da pranzo e i salotti e continuò in linea retta per la strada. Poi piegò a destra e poi a sinistra fino alla strada dei Turchi, senza accorgersi che non si era tolta né il grembiule da cucina né le babbucce da casa. E uscì nella piazza, ed entrò nella porta di una casa dove non era mai stata, e spinse la porta della camera, e quasi soffocò per l'odore di polvere da sparo bruciata, e trovò José Arcadio boccoli per terra, sulle cose che si era appena tolto, e vide l'origine del filo di sangue che aveva già smesso di sgorgare dall'orecchio destro del cadavere. Non trovarono alcuna ferita sul suo corpo e non riuscirono a trovare l'arma. Non fu nemmeno possibile togliere il penetrante odore di polvere da sparo dal morto. Prima lo lavarono per 3 volte con sapone e strofinaccio, poi lo stropicciarono con sale e aceto, poi con cenere e limone e alla fine lo misero in un tino di lisciva e ve lo lasciarono a macerare per 6 ore. Quando concepirono l'espediente disperato di metterlo a bollire a fuoco lento per un giorno intero dopo averlo steccato con pepe e comino e foglie di lauro, aveva già cominciato a decomporsi e dovettero seppellirlo in fretta e furia. Lo chiusero ermeticamente in una bara speciale lunga 2,30 metri e larga 1,10 metri, rinforzata nell'interno con piastre di ferro e avvitata con perni d'acciaio. Ma anche così si percepiva l'odore di polvere da sparo nelle strade dove passò il funerale. Padre Nicanor, col fegato gonfio e teso come un tammuro, gli mandò la benedizione dal letto. Benché nei mesi seguenti rinforzassero la tomba con muri sovrapposti e gettassero negli interstizi cenere compressa, segature e calce viva, il cimitero continuò a puzzare di polvere da sparo anche per molti anni dopo, quando gli ingegneri della compagnia bananiera ricoprirono la tomba con una corazza di calcestruzzo. Non appena portarono via il cadavere, Rebecca sbarrò le porte della sua casa e si seppellì viva, chiusa in una grossa crosta di sdegno che nessuna tentazione terrena riuscì a infrangere. Tranne Archenida, sua serva e confidente, nessuno ebbe più rapporti con lei da quel momento. E il villaggio la dimenticò.